Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, fermo restando che come ogni venerdì avremo anche l'appuntamento con la nostra poco invidiabile classifica. Riprenderemo il tema delle pensioni, anche se devo dire, visto che stava facendo molta notizia, una dichiarazione smentita dallo stesso presidente dell'INPS Boeri, che se non smentita avrebbe avuto oggettivamente il sapore di uno scontro frontale con il governo. Ricordo che il governo, che poi ha nominato anche il presidente dell'INPS, e già nel passato avevamo fatto notare parecchi distinguo per cui si era contraddistinto Boeri nella posizione, rispetto alla posizione del governo, molto spesso inerenti ai temi dell'INPS, altre volte anche, a nostro avviso, più come economista. Perché lo dico? Perché era uscita un'agenzia in cui veniva messa in bocca al presidente dell'INPS una dichiarazione di questo tenore. Mi sembra che gli impegni del governo non siano tanto credibili, speriamo che nella seconda fase del confronto con i sindacati il prossimo anno si possa mettere in campo una strategia coerente, bisogna vedere se il governo avrà la forza per farlo. E questo lo avrebbe detto a margine di un convegno sul welfare organizzato a Torino. Lo stesso Boeri, lo dico per la precisione, ha chiarito poco dopo che non ha mai detto e mai pensato che gli impegni del governo siano poco credibili, anzi le osservazioni che in passato ho rivolto all'esecutivo le ho fatte proprio perché so che il governo si impegna seriamente sui suoi piani. Oggi mi sono espresso unicamente sul tema delle salvaguardie, precisando che ci avevano detto che la settimana scorsa sarebbe stata l'ultima, invece ora c'è già l'ottava e ho il tam tam della nona. Detto questo, l'INPS oggi, al di là della polemica, che secondo poi le stesse dichiarazioni di Boeri non c'è mai stata, detto questo, il dato di oggi lo commenteremo, perché l'osservatorio INPS sui pensionati segnala il 39,6%, praticamente il 40% dei pensionati italiani, pari a 6.400.000 persone, ha un reddito da pensione inferiore ai 1.000 euro al mese. E questa fascia di reddito non può contare sul 16% della spesa complessiva. La percentuale che ha meno di 1.000 euro al mese è in calo comunque rispetto al 40,3% del 2014, quindi erano 40% nel 2014, sono scesi di poco, di neanche un punto percentuale nel 2015. La percentuale è molto più alta tra le donne, 48% delle donne pensionate ha una pensione sotto i 1.000 euro, rispetto ai maschi 29,8%. La spesa pensionistica è cresciuta nel 2015 dell'1,2% a 280 miliardi di euro, le prestazioni sono scese e il numero di beneficiari delle prestazioni appunto è sceso. Tra l'altro la media è di una pensione percepita praticamente di 1,4. Quante pensioni percepiamo a testa? 1,4, questo è il rapporto. L'importo medio delle prestazioni pensionistiche è di 12.136 euro annui lordi, per cui questo è l'importo medio, che vede pochissimo di sopra essere di sopra 1.000 euro per al mese per pensione. Anche di questo parleremo, e poi concluderemo l'approfondimento di ieri sul CETA, l'avevo promesso, e quindi sui pericoli, i rischi ipotetici di questo accordo col Canada e anche le bufale che sono circolate in queste settimane. Per quello che riguarda altre novità, segnalo che oggi il ministro Padoan è intervenuto da Roma anche dopo le parole positive del commissario europeo Moscovici che ha definito costruttivo l'incontro con il ministro dell'economia italiano Padoan. Esamineremo la lettera dell'Italia con spirito altrettanto costruttivo. Ha confermato Moscovici che Bruxelles ha ricevuto tutta la lettera, non vuole fare commenti, adesso vuole guardare, ora è il momento dell'analisi, la scadenza per dare una opinione della Commissione è infatti a fine novembre. Padoan ha aggiunto oggi che certamente le regole vanno rispettate, ma a volte sono scritte o disegnate, ha detto lui, chiaramente male. Se vogliamo fare progressi vanno migliorate, andiamo avanti col taglio delle tasse, non è uno slogan. Nella legge di bilancio c'è il sostegno alle famiglie e agli investimenti, e poi questa legge di bilancio è scritta nel rispetto delle regole europee. Abbiamo chiesto e ottenuto dal Parlamento il rialzo del deficit proprio per coprire le spese sui flussi migratori e sul sisma. 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Su questo, visto che parliamo anche di legge di stabilità e quello che è la voce dei ricavi, faccio notare che oggi è arrivato l'SMS a chiappa scadenze e rimborsi. Cosa è successo? L'Agenzia delle Entrate ha attivato il servizio 5 tipologie di avvisi, sostanzialmente è un messaggio che arriva con l'indicazione dell'Agenzia delle Entrate, arriverà solo a chi lo richiede, non avrà costi e deve avvisarti delle scadenze fiscali. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, trasmessi anche su RDS. La firma oggi è del vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Se vi siete accreditati sul sito Fisco Online, il volto web dell'Agenzia delle Entrate, da oggi vi arriveranno gli SMS personalizzati per informarvi che o non risulta recapitata una comunicazione, o per avvertirvi che sono state accreditate somme a voi dovute dall'amministrazione, o ancora che mancano pochi giorni alla scadenza importante di un pagamento fiscale. SMS per il governo sta per Se mi scordo, un acronimo che vuole contribuire a rendere meno feroce la faccia del fisco. Con questo mezzo amichevole, quindi, le entrate puntano a evitare di ricorrere alle famigerate cartelle, sulla base del principio che un fisco più vicino al contribuente, anche nella comunicazione, può far recuperare più di un esattore vissuto come un gabelliere. L'audience cui guardano i tecnici del fisco è soprattutto quella di chi tende a dimenticare o a trascurare le scadenze o ancora a sottovalutarne l'impatto, e non sono pochi. Una volta ricevuto il messaggio, il contribuente deve chiamare il call center dell'Agenzia delle Entrate per ottenere copia del documento oggetto della comunicazione e pagare il dovuto senza sanzioni e senza interessi. Ci sono 30 giorni di tempo. Potrà anche capitare di leggere nei 160 caratteri una frase di questo tipo: l'Agenzia delle Entrate sta erogando il suo rimborso sul conto corrente comunicato, verifichi a breve l'effettivo accredito. Questo sì che è il volto umano delle tasse. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. E adesso arriviamo anche alle borse, lo dico a chi sta scrivendo, se qualcuno fa le battute che SMS non è se mi fossi scordato, ma potrebbe essere anche se mancano i soldi, in effetti. Andiamo alla borsa invece, oggi di nuovo in evidenza ST Microelectronics, mentre Piazza Affari perde lo 0,70%, Parigi guadagna lo 0,30%, Francoforte meno 0,20%, Londra più 0,14%, Dow Jones più 0,30%, dicevo ST Microelectronics più 5,30%, CNH Industrial più 1,70%, Luxottica più 1,40%, Mediobanca più 1,1%, come Brembo e Fineco Bank, lo 0,90 è A2A e lo 0,60 lo guadagna Snam. Fronte opposto, meno 3,60 Monte dei Paschi, meno 3,40 Recordati, meno 2,80 Azimut, meno 2,60 Generali, meno 2,30 Eni, meno 2% Saipem, Unipol perde l'1,90, Intesa San Paolo l'1,70%. Eni oggi ha comunicato di aver chiuso il terzo trimestre dell'anno con una perdita netta pari a 560 milioni, quella adjusted è 480 milioni, nei primi 9 mesi il risultato di Eni è in rosso per 1.390 milioni, quello adjusted è in rosso per 800 milioni. Ancora, per quello che riguarda i dati e le notizie di carattere internazionale, sì, c'è una sedia che scricchiola, me lo state scrivendo da giorni, metteremo dell'olio alla sedia, che dobbiamo fare? Allora, per quello che riguarda, è comunque la sedia che scricchiola, il dato americano, gli Stati Uniti, PIL terzo trimestre più 2,9%, oltre le attese erano di una crescita americana del 2,5%, ed è una buona notizia perché è la crescita più forte dell'economia americana negli ultimi 2 anni, dopo alcuni mesi in cui abbiamo commentato una ripresa molto o decisamente più fiacca delle attese. E a questo punto, tra l'altro, nei trimestri precedenti oscillava intorno a 1,5% della crescita del PIL americana. È innegabile che il dato assuma un'importanza particolare a meno di una settimana dal voto. L'8 novembre noi avremo una lunga diretta di Radio 24 che inizierà già dalle 21 tutta la notte in diretta in attesa del voto, e poi gli speciali la mattina, lo dico come informazione di servizio, e soprattutto servirà molto alla Federal Reserve, che deve capire quando rialzare i tassi. È abbastanza escluso che rialzi la settimana prima delle elezioni, però è un motivo in più per alzarli se l'economia americana ha uno stato di salute migliore delle attese. Restiamo sui temi dell'economia internazionale. Allora, a Londra è arrivata una pesante sconfitta legale per Uber in Gran Bretagna. Il Tribunale del Lavoro di Londra ha infatti stabilito che gli autisti della società di San Francisco, della Uber, devono avere una serie di diritti tipici del personale dipendente, come giorni di ferie retribuiti, minimo salariale, e non possono essere considerati lavoratori autonomi. Il sindacato dei tassisti inglesi ha definito la decisione, come un'enorme vittoria per i 40.000 autisti di Inghilterra e Galles. Uber ha detto che si appellerà al verdetto. Ci potrebbero comunque essere già subito delle conseguenze per tutte le società che impiegano conto terzisti indipendenti per offrire servizi. Penso alle consegne a domicilio, e ricordate che ci siamo occupati in queste settimane anche del caso Foodora nei GR, ma non solo, per lì più che i diritti era proprio lo stipendio che veniva dato, quanto venivano pagati. E detto questo, voi sapete la mia posizione completamente a favore della concorrenza e della liberalizzazione, purché tutti rispettino le regole, e quindi se si dimostra che di fatto tu lavori per Uber come un dipendente, è giusto che ti vengano riconosciuti dei diritti tipici del personale dipendente, giorni di ferie retribuiti, minimo salariale. Cioè, non puoi essere considerato come lavoratore autonomo se tu di fatto quello lo fai come lavoro sempre e comunque della tua principale fonte di reddito. Ho scatenato chiaramente gli sms sul rumore della sedia, perché qualcuno mi chiede: la sedia scricchiola, la sedia qualcosa, qual è la rotella della sedia? Possiamo andare avanti, però oggi sono le rotelle di queste sedie che abbiamo in studio, evidentemente sentono il tempo. Andiamo avanti con le notizie che riguardano invece l'Europa. Allora, da un lato la Royal Bank of Scotland ha annunciato perdite per 470 milioni di sterline, mezzo miliardo di euro, ed è il motivo per cui raccontavamo di Royal Bank of Scotland e della difficoltà in cui sta mettendo il governo britannico, che ricorderete ha salvato la banca comprandone il 70% quando scoppiò la crisi. Ha difficoltà a uscire adesso perché andrebbe a perderci rispetto ai prezzi, diciamo, a cui ha comprato la quota di controllo. Nel frattempo la Germania ha avuto un dato positivo, ma attenzione sull'inflazione, che cresce al ritmo più veloce da 2 anni a questa parte, più 0,7%, e devo dire che su base annua a questo punto l'inflazione va da 0,5 a 0,7, ancora distante rispetto all'obiettivo della Banca Centrale Europea di arrivare a un'inflazione al 2%. Due notizie in breve sull'Italia per quello che riguarda la manovra, abbiamo detto, ne parleremo più avanti, la lettera è stata ricevuta dell'INPS, anche parleremo più avanti. Volevo restare sul tema del patrimonio degli enti di previdenza, ma questa volta è per il ruolo che avrebbero dovuto avere nei salvataggi bancari, perché oggi il presidente dell'ente pensionistico privato dei notai, la Cassa Notai, Mario Mistretta, ha chiarito che il patrimonio della Cassa Previdenziale ammonta a circa 1,5 miliardi di euro, di cui il 50% composto da beni immobili. L'80% degli investimenti è collocato in Italia, ma ha poi aggiunto: il Fondo Atlante, quello che è stato creato per aiutare le banche in difficoltà e che di fatto ha già speso quasi tutto per salvare Evento Banca e Popolare di Vicenza, dicevo, il Fondo Atlante è ancora in una situazione di stand-by, non c'è stato ancora indicato esattamente il valore dei non performing loans, quindi non potevamo investire su nulla. Questa è in parte la risposta al fatto che si chiedeva alle casse di previdenza di mettere dei soldi anche nel Fondo Atlante, e Mistretta ha chiarito perché non l'ha fatto. Invece, chi si definisce attiva o che si è attivata nel sostegno del sistema bancario italiano è Mediobanca, che per voce dello stesso numero uno, Alberto Nagel, ha detto di essere molto attiva anche su Monte dei Paschi. Per quello che riguarda invece i rischi che si possono vedere, Nagel ammette che sul referendum costituzionale si sia creata un'aspettativa a torto ragione sui mercati, che qualora non passasse si potrebbe creare una crisi italiana particolarmente lunga. Ha aggiunto Nagel: c'è questa aspettativa sui mercati, bisogna capire se rimarrà come tale nelle prossime settimane. E poi ha definito il bail-in come una formula, in alcuni casi, che ha degli effetti peggiori rispetto ai salvataggi pubblici. Questo nel giorno in cui Mediobanca ha diffuso i dati sul trimestre. Utile più 11% a 270 milioni di euro, ricavi più 4%, è il miglior trimestre dal 2008 un risultato nettamente sopra le attese del mercato. Ancora due notizie, poi andiamo sul meteo, inizia la classifica. Allora, per quello che riguarda l'antitrust, l'autorità garante della concorrenza del mercato ha acceso il suo faro, come si dice in gergo, su WhatsApp per presunte violazioni del codice del consumo. Sostanzialmente si vuole accertare se WhatsApp abbia costretto gli utenti ad accettare integralmente i nuovi termini contrattuali, in particolare la condivisione dei propri dati personali con Facebook. E questa è una. La seconda invece riguarda i dati sui gli italiani in viaggio, visto che proprio l'altro ieri abbiamo parlato del settore turismo con Bernabò Bocca, la stessa Federalberghi, che stima in 7 milioni gli italiani tra maggiorenni e minorenni in viaggio nei prossimi giorni, che trascorreranno almeno una notte fuori casa. A fanno notare che l'ultimo ponte del genere si verificò nel 2013, ma come lo ricordavo e diventa difficile ogni raffronto. Il 91,5% resterà in Italia, l'8,5% andrà all'estero. Ora leggo una notizia che ci porta poi direttamente alla classifica. Oggi l'amministratore delegato di Trenitalia, Barbara Morgante, a chi le chiedeva se nel caso dei prossimi mesi dovessero esserci problemi sulla tenuta, sul commissariamento di ATAC a Roma, e poi capiremo perché dopo il meteo, ha risposto: noi siamo pronti a qualsiasi cosa, siamo un'azienda che ha delle performance eccezionali, Trenitalia, sempre più cresciuta nel tempo, abbiamo competenze interne e anche manageriali. Devo dire che anche il numero uno di Ferrovie dello Stato ci aveva fatto capire che l'intenzione era anche di gestire il trasporto locale. Questa però è Trenitalia. Beh, vedremo dopo il metro a pubblicità, perché c'è l'ipotesi che ATAC, se continua in questo modo, venga di fatto commissariata. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. la classifica della settimana. Oh, di nuovo in diretta, adesso parliamo della nostra poco invidiabile classifica. Oggi devo dire si concentra soprattutto al centro-sud, ma andiamo con ordine, anche se il quinto posto se lo becca il comune di Gombito, piccolo comune, 630 abitanti in provincia di Cremona. Voi direte che cavolo avrà combinato questo comune? No, guardate, la vicenda è ancora più paradossale per chi non l'avesse seguita. Cosa succede? C'è un sindaco che si chiama Massimo Caravaggio, è il sindaco di Gombito. Che cosa decide di fare? Si improvvisa giardiniere, ossia va a tagliare delle siepi, delle piante del suo comune. E voi direte, beh, dove cavolo è la notizia? La notizia è che l'ispettorato del lavoro, che notoriamente non ha niente da fare in un paese in cui il lavoro nero non esiste, i finti lavori da dipendente camuffati da partita IVA, i voucher aziendali non vengono mai abusati, non c'è niente di cui da fare nell'ispettorato del lavoro in provincia di Cremona. E quindi cosa va a fare? Va a dare una multa da 3.000 euro al sindaco perché, per il bene della collettività, non era formato per svolgere questa mansione. Ha dato la multa a lui e all'assessore Primaldo Sali. Ora, si è mossa anche l'ANCI, perché l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che devo dire stavolta ha ragione, e scrive: un sindaco, soprattutto di un piccolo comune, è prima di tutto un volontario civico. In effetti va detto, noi raccontiamo di sprechi inaccettabili che fanno venire voglia di reagire in vari modi, ma ci sono centinaia di assessori, sindaci, consiglieri comunali di piccoli centri soprattutto, che fanno il loro lavoro praticamente gratis. Allora, un sindaco di un piccolo comune, scrive l'ANCI, è prima di tutto un volontario civico, una persona che vive ogni giorno gratuitamente o quasi al servizio della propria comunità e se ne assume le relative responsabilità. L'ANCI ha scritto questa lettera al presidente della regione Lombardia Maroni, al direttore dell'INAIL di Cremona e al prefetto Paola Picciafuochi. Chiedo, ma veramente bisogna arrivare, tra l'altro immagino anche la macchina burocratica, infatti adesso si è rimessa in moto la macchina burocratica, a multare 3.000 euro un sindaco perché si è messo a tagliare spontaneamente delle piante nel suo comune, risparmiando anche sui giardinieri? Sono questi i problemi dell'Italia? Sì, vediamo se sono proprio questi. Perché secondo me, per esempio, è più un problema quanto sta capitando all'Assemblea Regionale Siciliana, dove sta ritornando dalla finestra la famosa tabella H. Allora, la tabella H, sì, è vero che l'ispettorato è stato chiamato dall'opposizione nel piccolo comune, eppure lì l'opposizione di un comune di 630 abitanti non ha una mazza da fare se non chiamare perché uno taglia le piante. Si mettessero anche loro a tagliare le piante e così siamo tutti a posto. Dicevo, andiamo al quarto posto, dove c'è la famosa tabella H. La tabella H nell'Assemblea regionale siciliana assumeva tutti gli effetti, i contorni della legge Mancia. Cioè veniva consentito ai deputati di erogare fino a 70 milioni di euro complessivi ad associazioni amiche. L'hanno abolita, in realtà è tornata. I fondi sono meno, 8 milioni di euro, ma non è che questo giustifichi lo spreco comunque. Ed è prevista una lunga istruttoria degli uffici con tanto di commissione che valuta le proposte. Il problema è che siamo andati a guardare le proposte e al di là di alcune cose assolutamente condivisibili, la federazione, un finanziamento alla federazione delle associazioni di talassemia, all'Avis Regione Sicilia, per carità, tutte cose benefiche, ci sono dei finanziamenti inspiegabili. Allora, lo dico perché viene finanziato tutto al contrario di tutto, ma nessuno qua è contrario che la Regione Sicilia finanzi enti, associazioni, no profit, utili. Ma voglio dire, dal circolo di tiro con l'arco al convegno sul Mediterraneo con annessi viaggi in Tunisia è un po' diverso. Allora vediamo un po' di capire. L'università Core di Enna riceve una montare di soldi, obiettivamente, che non si capisce. Adesso vi leggo la lista. Ma ci sono soldi dati alle associazioni sui tamburi antichi e teatri di ogni genere. Poi tornano i fondi all'Accademia dei Zelanti e Dafnici. Ora io chiedo in regia se mi potete trovare un audio di che cosa fa l'Accademia dei Zelanti e dei Dafnici. Noi avevamo già avuto un audio, se non ricordo male, anni fa sulla Sicilia, vado a memoria, non tanto sugli Zelanti, adesso mi verrà in mente chi erano, di un ballo strano, però ad Acireale c'è l'Accademia degli Zelanti e dei Dafnici. Non vengono finanziate altre cose, ma il finanziamento da 55.000 euro all'Associazione Cooperazione Internazionale Sud, già il nome Sud, de che? Percorsi di formazione sulla cooperazione nel Mediterraneo. Ma ragazzi, sono morte delle persone anche oggi, cioè, ma quei 55.000 euro, ma dagli ai volontari, ma che cosa dobbiamo formare di cooperazione sul Mediterraneo se stiamo affrontando emergenze quotidiane? Comunque, la cosa bella è che si svolgeranno dei corsi di formazione rivolti ai giovani con annesso convegno in uno dei paesi coinvolti, Tunisia, Egitto o Marocco. Sta a vedere che poi, visto il rischio geopolitico, andranno in Marocco. Poi ci sono 232.000 euro all'ISISC, Istituto Superiore di Scienze Internazionali di Siracusa, vabbè, fin là. 150.000 euro all'Associazione Arce di Palermo, e vai avanti così, benissimo. I 42.000 euro al Centro Studi di Economia Applicata alla Facoltà di Ingegneria di Catania. Poi spuntano cose un po' strane, ripeto, il finanziare l'Atletica Padua Ragusa, l'Associazione di Amici della Musica di Solarino, l'Associazione Polisportiva Compagnia Arcieri di Floridia, la parrocchia di San Silvestro Papa, ma cosa c'entra la parrocchia? Poi non capisco perché gli arcieri sì, non so, i frombolieri no, boh. Dicevo, c'è il teatro, c'è un teatro stranissimo, il piccolo teatro patafisico, anche qui ammetto la mia ignoranza, cosa sia un teatro patafisico, aiutatemi oggi in regia, non so cosa voglia dire teatro patafisico, così come l'associazione culturale Darshan di Catania, l'associazione del tamburo di Acireale, l'IRSAT di Biancavilla, e poi il consorzio di ricerca filiera cani di Carini, 256.000 euro, quanti sono i cani? Il consorzio per la sericoltura, 221.000 euro, l'Euromed Carrefour di Palermo, il Coreras, 240.000 euro, il Coribia, 200.000 euro, il consorzio ballatore di Enna, 233.000 euro. Poi 1.300.000 euro vanno all'Università Core di Enna, che riceve altri finanziamenti attraverso diversi capitoli del bilancio, perché non basta 1.300.000 euro. Vabbè, cosa volete che vi aggiunga? Andiamo invece in regione Campania. Allora, gli zelanti fanno la bracciolata ogni anno, non so cosa voglia dire. Adesso sto cercando di capire gli zelanti. Patafisica, arte delle scienze immaginarie, ho capito, però i soldi sono reali, mi state scrivendo, avete scoperto se c'è una musica sugli zelanti? No, non c'è neanche su YouTube da nessuna parte, non, gli zelanti sono così zelanti che non vogliono essere su YouTube. E i dafnici, li abbiamo scoperti, sì, i dafnici, adesso uno deve andare a ripetere certe, a rivedere certe memorie che non ho più del liceo, insomma, boh, dafni, almeno sapere cosa fanno sti dafnici, per favore, una mano. Andiamo avanti, dicevo, andiamo alla regione Campania. Cosa succede? Allora, c'è questo brutto vizio alla regione Campania per cui vengono lì distaccati dei dipendenti dei comuni della regione Campania a lavorare in regione Campania. Restano, poi la spiego veloce, restano in carico alle amministrazioni da dove provenivano, che continuano a pagargli lo stipendio, nonostante non lavorino di fatto più per loro. Conseguenza, adesso stanno arrivando un insieme di richieste dei vari comuni della Campania alla regione, che valgono complessivamente 25 milioni di euro che la regione deve tirare fuori per dare ai comuni quella quota di stipendio che loro hanno continuato a pagare, di dipendenti che erano intanto stati distaccati dalla regione. Allora, il comune di Napoli ha avviato le procedure per mettere in mora la regione Campania. Capisci, qua siamo uno scontro dei magistri, secondo Luca, che oggi è finito pure nei guai di nuovo con la magistratura, ma ve l'hanno detto i nostri GR. Comunque, e chiede, e ha fatto un'ingiunzione al comune di Napoli, a De Luca, per 1 milione di euro, relativa ai soldi non incassati dal 2007 a oggi per 3 impiegati comunali che hanno prestato la propria attività in consiglio regionale. E c'è la lista di altri creditori. A questo punto la regione Campania rischia di essere sommersa da migliaia di lettere di messa in mora e dovrebbe saltare parcelle da capogiro, perché ci sono anche gli interessi dentro e i compensi per gli avvocati. Allora, delle due l'una: o li tenevi, li assumevi, cioè, e così non paghi interessi e compensi per gli avvocati, o pagavi subito il dovuto e non aspetti 18 anni. Allora, due modi in cui negli uffici dei consigli regionali si cerca di recuperare le risorse, perché insomma non sono pochi. Cosa ha fatto la regione per capire come, la regione Campania, come pagare questi 25 milioni di euro dovuti ai comuni? Intanto ha messo in piedi due gruppi di lavoro con altrettanti progetti specifici. 5 dipendenti remunerati complessivamente con 8.000 euro dovranno mettere ordine nei numeri e fotografare con esattezza la situazione debitoria relativa al periodo tra luglio 2015 e il 31 dicembre 2016. Un altro gruppo invece lavorerà, coordinato da Francesco Capalbo, all'epoca capo dipartimento della segreteria generale e fratello di Ferruccio Capalbo, magistrato della Corte dei Conti, dovrà capire quanto deve pagare il consiglio regionale campano per, si chiamano in gergo questi dipendenti distaccati, si chiamano comandati. Quanto dovrà pagare per i comandati nel periodo 2000 e, dove sono finito, 2004-2015. Voi, uno può anche immaginare che a questo punto sia solo un problema di cattivo funzionamento della burocrazia, per cui dovevi pagarli subito, non pagare interessi e compensi per gli avvocati. Purtroppo rischia di esserci di più, perché il Consiglio regionale campano ha 212 dipendenti, bene, ma 103, quasi uno su due, per comandati, cioè persone che frequentano gli uffici e le segreterie politiche in una posizione di comando, provengono dai ministeri, dall'Agenzia delle Entrate, dalle università, dai comuni, dalle società contratte della regione, dall'Istat, da dovunque, approdano al centro direzionale con evidentemente il motivo di una qualche inderogabile esigenza e necessità temporanea, ne fa richiesta al consigliere o al membro dell'ufficio di presidenza e restano lì per anni. Allora, a parte il fatto che, voglio dire, che un consigliere e un ufficio di presidenza chieda a un comandato per un tempo breve, resti lì per anni, poi devi pagarne, cioè devi risponderne tu perché questa persona a livello dirigenziale sta così tanto tempo, facevi prima aprire un bando, non so, o a chiarire la posizione. L'altra cosa che mi lascia un po' perplesso è che obiettivamente questi restano tra gli uffici delle commissioni, delle segreterie particolari, dei gruppi politici presenti all'assemblea consiliare, liberi dai rigidi orari di lavoro e tra l'altro senza una mansione precisa da svolgere, perché spesso questi incarichi vengono dati così, esigenze inderogabili e temporanee. Beh, vedremo quale soluzione adotterà la Regione Campania. Comunque, deve, a un primo calcolo, deve tirar fuori 25 milioni di euro. Allora, io vado sul traffico, poi vorrei dare seconda e prima, se ce la faccio. Nel frattempo attendiamo con ansia la musica dei Dafnici e come erano gli altri degli Zelanti. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. La classifica della settimana. Allora, andiamo al secondo posto. Al secondo posto eravamo molto indecisi tra ATAC e i forestali, che poi non sono i forestali nazionali ma regionali della Calabria. Lotta titanica, ancora non sono sicuro se abbiamo fatto mettere bene a mettere al secondo posto l'ATAC e ai primi forestali, così ho già svelato il primo. Allora, l'ATAC, perché ne parliamo? Attenzione, c'era la dichiarazione appunto oggi anche dal ministro legato di Trenitalia, perché la situazione all'ATAC ormai è talmente allo sbando, ripeto, non c'entra nulla in questo momento il sindaco Raggi, ma deve svolgere la pratica il sindaco Raggi. Tra l'altro l'annus horribilis dell'ATAC è l'anno in cui era sindaco Alemanno, andiamo a controllare, 2010. Perché lo dico? Perché... qui il rischio è che arrivi un commissario straordinario. Palazzo Chigi l'ha già indicato come richiesto in un ordine del giorno che è passato in maniera bipartisan al Senato. Il Campidoglio non ne vuole sapere di un commissario straordinario, però dal 2006 ad oggi l'Ataca sempre, che è la municipalizzata romana, chiuso in rosso. Nel 2010, quando c'è la fusione di Ataca S.p.A. con Trambus e Met.ro S.p.A., il passivo, cioè il record, le perdite arrivano a un livello record di 320 milioni. I dipendenti a seguito della fusione arrivano a 11.000 dipendenti. L'indebitamento netto passa da 173 milioni a 350 milioni. I costi del personale salgono a 580 milioni. E appunto la perdita nel 2010 di 320 milioni. L'anno dopo va un po' meglio, 180 milioni di perdita. Nel 2012 156 milioni. Nel 2013 torna a perdere 220 milioni. Poi 140 milioni nel 2014. 80 milioni nel 2015. Il problema è che anche il 2016, invece che mantenere, diciamo, questa discesa, sta avendo dati preoccupanti. Perché? Perché a questo punto il rosso potrebbe essere intorno ai 120 milioni, quindi tornare a salire. È una proiezione che prende atto in maniera pessimistica di 50 milioni di crediti inesigibili. Poi ci sono gli interessi che l'ATAC paga alle banche, interessi che arrivano anche al 4,6%. Comunque, ai romani in ascolto, se volete sapere qual è l'anno in cui l'ATAC è stata veramente, dal 2010 al 2015, anche se già dal 2006 al 2009 le perdite sono puntuali, tant'è che nel 2009 il risultato era negativo di 91 milioni, nel 2008 di 82 milioni. Il tutto, il debito complessivo dell'ATAC, queste sono le perdite esercizio per esercizio, è a 1 miliardo e 300 milioni di euro, 325 milioni verso i fornitori, auguri se sei fornitore, e 477 milioni verso gli enti controllati. E hanno anche la fortuna che il Campidoglio, il Comune di Roma, abbia da poco congelato il debito da 430 milioni che l'azienda ha nei suoi confronti, rinviando di 2 anni il piano di rientro di questo debito. E non voglio tornare sulla decisione, che a nostro avviso è sembrata molto improvvida, del eliminare subito il direttore generale dell'ATAC, che a nostro avviso bene aveva operato, erano crollati i furti, crollate alcuni abusi, crollate l'assenteismo, insomma, per cui su questo ci siamo mossi in maniera un pochino più cauta. Del primo posto, ragazzi, parliamo dopo il GR24, vi ho già svelato, ma non è solo il numero di dipendenti della regione, li chiamiamo forestali per facilità, non è solo il numero, è anche quello che non fanno, ed è anche la situazione del dissesto idrogeologico della Calabria. L'amministratore delegato dell'ATAC mandato via è Rettighieri, che noi difendemmo senza manco conoscerlo, lo dico a chi mi scrive, 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Pneumatici Invernali Yokohama V905. Metti i tuoi sensi in contatto con la strada. Radio 24. Libera la voglia di fare. Da oggi tutta la radio che vuoi è sempre con te. Dove vuoi, quando vuoi, nella nuova app di Radio 24. Scarica subito l'applicazione gratuita per smartphone e tablet. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19.15. Soundcheck. Sempre soltanto su Radio 24. Radio 24 sarà a Lucca in occasione del Lucca Comics dal 28 ottobre al 1 novembre, con una giornata speciale venerdì 28 dedicata al radiofumetto Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo. E per chi non potrà essere a Lucca, il 1 novembre giornata dedicata al mondo del fumetto, con interviste, personaggi, approfondimenti e 3 appuntamenti speciali con Dylan Dog alle 10, alle 14 e alle 18. Se vuoi saperne di più, www.radio24.it. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Di 18 e 9 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per l'ultima parte della classifica. Nel frattempo abbiamo scoperto che l'Accademia di Scienze, Lettere, Belle Arti degli Zelanti e dei Dafnici è un'accademia che prende il nome dalla Pinacoteca Zelantea, chiedo scusa per l'ignoranza, e le opere dei soci sono annualmente raccolte e pubblicate nei volumi. Ci sono varie opere, ma tutto bene, nel senso che un terzo dei 24 soci effettivi deve essere riservato ai più colti sacerdoti secolari della diocesi, nessuna donna è mai stata socio effettivo dell'accademia, tutto bene. Cosa fa? È attiva nella pubblicazione di opere di divulgazione scientifica e letteraria e raccoglie, grazie a fondi pubblici regionali, eccoli qua i soldi della regione, le opere dei soci nella pubblicazione Memorie e Rendiconti, curando una distribuzione in Italia nelle maggiori biblioteche dell'università. Ma se sono le opere dei soci, e ho capito, ma non se le posso pagare loro, ma le devono pagare noi. Beh. Diamo all'ultimo posto, al primo posto, scusatemi, andiamo sul vincitore. And the winner is... Allora, l'avevo già annunciato, tutti i dipendenti forestali calabresi non c'entrano col corpo forestale dello Stato che si sta facendo assorbire, diciamo, dai carabinieri. Allora, il nuovo commissario straordinario, perché c'è un commissario straordinario, ed è l'ex generale dei carabinieri Aloisio Marigiò. Quando è arrivato 6 mesi fa, ha trovato un esercito alle dipendenze della regione di 5.887 uomini per evitare il dissesto e mettere mano al dissesto idrogeologico della Calabria. E quanti mezzi? Ah, fate un conto: 5.900 uomini e 3 ruspe, che già così sarebbero 2.000 uomini a ruspa. Ora, non so quanto, ma il problema è che le 3 ruspe sono tutte rotte. Allora, il commissario, l'ex generale, chiese una panda e scoprì che mancava l'assicurazione. Porca miseria, l'assicurazione era la panda. E nonostante il simpatico giochetto costi 200 milioni di euro l'anno nascosti in un bilancio che non si riesce a leggere, voi dite, è tanto poco 200 milioni, possiamo prendere il Veneto come... raffronto, che qualche montagna ce l'ha anche lui. Allora, 200 milioni di euro pagati per i dipendenti della regione Calabria come forestali sono esattamente 10 volte in più di quanto paga il Veneto, perché la Calabria ha 5.887 forestali stabili, il Veneto ne ha 277, ma si sa che le Dolomiti non esistono in Veneto, né le Prealpi. Il costo, tutto compreso, anche dei 347 stagionali, in Veneto è di 21 milioni di euro netti contro i 185 milioni che vengono pagati per i forestali. Tra l'altro, la cosa interessante, si fa per dire, perché verrebbe, che il 96% dei costi dell'azienda regionale dei forestali calabresi se ne va in stipendi, ok? Per cui una volta pagati gli stipendi resta il 4% e le ruspe sono rotte e la panda non ha assicurazione e via così. Tra l'altro il governo, grazie al presidente Oliviero e alla delegazione dei parlamentari del PD, ha inserito nella legge di stabilità 50 milioni per l'SU e 130 per i forestali. Quindi, insomma, tant'è che la deputata Enza Bruno Bossio scrive sul suo blog: avanti tutta, avanti sulla strada dei diritti. Sì, deputata, avanti anche sulla strada dei doveri nella vita, perché i diritti quali sono? Allora, si chiama Calabria Verde, che con questi numeri sarebbe Calabria al Verde in un paese normale, non ci avrebbe i soldi per esistere. Fondata nel 2013 per sistemare in un unico carrozzone i vecchi forestali dell'AFOR e poi quelli delle comunità montane, gli addetti alla sorveglianza idraulica, passati da part time al tempo pieno con un raddoppio dei costi. Io non ho capito se i diritti a cui facesse riferimento la deputata Enza Bruna Bossio fossero quelli degli italiani o dei dipendenti calabresi. Mi sembra quelli dei dipendenti calabresi. Anche perché praticamente questo è assistenzialismo mascherato. In Calabria ci sono 9.417 frane censite che mettono a rischio la metà del territorio, ok? Tant'è che lo stesso Presidente della Repubblica, mesi fa, Mattarella, disse che la Calabria... e ricordò quanto la Calabria abbia sofferto di speculazioni ed incurie, nonché del perverso connubio tra malaffare e cattiva amministrazione. Benissimo, l'ultimo consuntivo della società, nonostante la svolta tentata dal commissario, l'ex carabiniere appunto Mariggiò, porta questo dato, e la Confartigianato fa notare che in Calabria ci sono il 27% degli edifici in stato di conservazione mediocre o pessimo, è quella messa peggio del paese. Eppure il geologo Mario Pileggi denuncia 2.587 interventi per un costo di 1 miliardo e 200 milioni ritenuti necessari, ebbene nel piano del suolo 2008-2009 solo in minima parte arrivati, anche perché ci sono operai, questo lo scrive il procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri, ex diciamo procuratore in Sicilia, ci sono operai mandati a mettere in sicurezza una fiumana pericolosa senza un mezzo meccanico, qualcuno si è portato il badile da casa, si chiede Gratteri in maniera retorica, ma si può risanare un territorio pericoloso senza una ruspa o con le vanghe portate da casa? E tra l'altro si sono pure mangiati, c'è un'inchiesta della magistratura, gli 80 milioni di euro dei fondi europei di sviluppo stanziati per contenere il rischio idrogeologico, li hanno usati per pagare gli stipendi, quindi l'Europa non te li darà più perché quelli servivano per opere, non per stipendi. Allora, andiamo avanti col badile, il secchiello, la paletta da casa, perfetto, primo posto era assegnato, complimenti a tutti i 5.887 uomini e tre ruspe, potrebbe essere un titolo di un romanzo, eh? Un romanzo, 6.000 uomini e tre ruspe. Luca Bulgarelli, fondatore di Sky Backbone e Ingenio, buonasera. Buonasera, dottor Barisoni. Allora, resti con noi ancora un minuto, che poi vorrei sentire il caso virtuoso come ogni settimana di chi si rimbocca le maniche e lancio un'attività di impresa, e poi passiamo alle pensioni, al rapporto INPS. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Allora, Luca Bulgarelli, cosa fa Sky Backbone Ingenio, quando è nata e chi vi ha dato i soldi? Il nome non è facile, effettivamente. Sì, potevate far di meglio, però andate avanti. Siamo nati nel 2013 e siamo attualmente 7 dipendenti e 3 liberi professionisti. Mm-hmm. Aziende focalizzate sui servizi informatici di outsourcing. Di fatto ci prendiamo cura delle infrastrutture dei nostri clienti, le gestiamo in esercizio, siano queste presso i clienti, siano queste cloud oriented, quindi presso i data center. Da subito non abbiamo voluto accedere al credito, quindi è stato un nostro diktat, abbiamo fatto un nostro autofinanziamento e devo dire che la nostra offerta però è piaciuta subito al mercato, quindi dopo pochi mesi siamo riusciti a camminare con le nostre gambe. Ma i soldi che vi li ha dati, mi scusi? Ci siamo autofinanziati. Età, che lei è Giuseppe Nale, se ho ben capito. Sì, ingegnere Nale. Sì. Io ho 40, quando fondai l'azienda, 45 anni, l'ingegnere Nale 55. Quindi, perché non è detto che le start-up siano sempre dei giovani, lo dico a chi ci scrive anche, ma intervistate qualcuno più sui 50 anni, stavolta ci abbiamo beccato. Quanto fatturate e quanti siete? Quindi 7 diretti, 3 indiretti, fatturiamo quest'anno, chiuderemo 1.400.000 euro. E quindi fornite servizi di consulenza, cioè, per cui se io fossi una piccola impresa e non volessi accollarmi in casa, in house, questi servizi, che cosa vi potrei appaltare, giusto per far capire a chi è in ascolto? Tutta la gestione dell'infrastruttura a supporto delle applicazioni business critical. E noi abbiamo avuto da subito un'idea molto chiara, che era quella che le imprese si dovevano rimettere a fare quello che era il loro focal point, quindi quello che erano le loro attività core, quindi chi fa macchine si voleva dedicare a fare macchine e non fare più informatica. Informatica sarà sempre più una commodity, alla stessa stregua dell'energia elettrica, del gas, si paga al mese per quello che si consuma. E quindi è una specie di bolletta, come pago la bolletta dell'elettricità, pago sì. Anche la bolletta per, non so, una parte informatica che riguarda vendite, acquisti, gestione magazzino, contabilità, immagino, no? Queste perfetto, centrato. E lì ho tutto dentro e non mi preoccupo più di gestire questi asset che non fanno parte del business delle imprese manifatturiere. Mi tolgo un'ultima curiosità e poi la saluto, ma perché non avete voluto neanche cercare un finanziamento dalle banche o da crowdfunding o da private equity? Eravamo estremamente convinti della nostra offerta e che quindi sarebbe stata vincente dopo pochi mesi, così è stato. Dopo 3-4 mesi eravamo già con il nostro capitale circolante che ci sosteneva. Ah, e quindi il progresso c'è stato da 2015 al 2016 già, no? 2013, 2015, 2016. Diciamo che abbiamo un fatturato che si raddoppia anno su anno. Ah. E una crescita di 3 nuovi clienti al mese è praticamente costante. Oh, complimenti, in bocca al lupo, glielo faccio comunque, anche se con un fatturato che raddoppia di anno in anno, lei lupo l'ha già incontrato, però in bocca al lupo per gli anni, per gli anni futuri. Grazie anche a Luca Bulgarelli, fondatore, cambiate sto nome, non si può dire, fondatore di Sky Backbone and Genio. E cambiamo invece tema, andiamo non solo sulla borsa ma anche e soprattutto sul rapporto dell'INPS sulle pensioni erogate in Italia. Allora, la borsa meno 0,60%, come ricordavamo, Parigi più 0,30%, Francoforte meno 0,20%, giornata abbastanza tranquilla, Londra più 0,14%, Monte dei Paschi meno 3,80%, Recordati meno 3,1%, Azimut meno 2,90%, Saip meno 2,40%, Generali meno 2,30%, Unipol meno 2,20%, Yux Santa Porte meno 2, Eni meno 1,70%, come la Pop Milano e Intesa San Paolo e anche UbiBanca. Bene, di nuovo dopo i conti e soprattutto i confronti con l'estero, ST Microelectronics più 5,50, CNH Industrial più 2,16, Luxottica più 1,70, Brembo più 1,5, Fineco Bank più 1,40, Buzzi Unicem più 1, Mediobanca più 1%, A2A più 0,40. Davide Colombo del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, al di là della polemica che in realtà non c'è stata, perché il presidente dell'INPS Boeri ha chiarito che non ha mai detto o pensato o scritto che il governo sia poco credibile nella riforma delle pensioni, c'era stata un po' di maretta, ma l'abbiamo chiarita, spero bene, in apertura del programma. Il rapporto di oggi, l'osservatorio INPS, riferito al 2015, che vede 6.400.000 pensionati sotto i 1.000 euro al mese, tanta roba, quasi il 39,6%, però mi sembra che abbia qualche elemento di miglioramento, cioè sono un po' calati i pensionati sotto i 1.000 euro e invece è aumentata la spesa per le pensioni dell'1,2% a 280 miliardi. Tutta tua l'analisi, Davide. Ma sì, io ti propongo questa analisi su questi, su questa statistica in breve dell'INPS, che oltre ai dati che segnalavi tu, appunto, fa vedere delle piccole variazioni. Ho provato a fare un ragionamento un po' più di lungo periodo e ho fatto un raffronto sul decennio, diciamo. Allora, il dato interessante forse è questo. Nel 2015 erano 4 milioni pensionati con più di 80 anni, il 25% del totale dei pensionati. 10 anni prima erano 2 milioni e mezzo, cioè erano il 15%. Sono aumentati del 10% i pensionati con più di 80 anni. Nello stesso periodo sono passati dal 35 al 22% i pensionati che arrivano fino a 64 anni, cioè che hanno non più di 64 anni. Questi due dati visti nel decennio cosa ci dicono? Che dal punto di vista delle entrate le riforme che sono state fatte negli ultimi 10 anni e più stanno producendo i loro effetti, cioè stanno contenendo la spesa, nonostante una pressione demografica avversa, nel senso che per fortuna viviamo molto più a lungo, ma questo per fortuna viviamo molto più a lungo produce delle coorti di pensionati con più di 80 anni che stanno prendendo la pensione da più di 30 anni che si inspessisce via via. Questo 25% prende una più o meno 17.000-18.000 euro annui di pensione, che non è lontanissimo dai 19.000 medi che prendono i loro colleghi che hanno 20 anni di meno. Questo che cosa significa? Significa che appunto ogni volta lo diciamo, ma questi sono aggregati di spesa non da controllare bene, vanno controllati benissimo a legislazione programmatica, cioè tenendo già conto della legge di bilancio. Tra il 2016 e il 2019 la spesa aumenterà di un altro 7,7 punti percentuali e saliamo da 260 a 279 miliardi. Sono un po' diversi i dati rispetto a quelli dell'INPS, perché questi sono dati previdenziali puri senza l'assistenza dentro, quelli dell'INPS contengono anche le prestazioni assistenziali. Quindi insomma dinamiche di spesa molto importanti che implicano un monitoraggio forte e un'attenzione molto forte per ogni singola misura che si prende. Aumentare le quattordicesime ovviamente è una scelta che poi prospetticamente produce una spesa che si spalma per le decadi a venire. C'è l'altro dato, quello sociale forse che dicevi tu, cui pure ha senso guardare, cioè abbiamo 2 milioni circa di pensionati che non arrivano a 500 euro al mese. Teniamo conto che questo è un dato che con il sistema contributivo, anche qui immaginiamocelo tra qualche decennio, si spesserà molto, per cui le ipotesi di una fase 2 della riforma targata Nannicini Poletti, che preveda un primo pilastro un po' rafforzato a contribuzione pubblica per consentire una pensione minima adeguata, più degna, ci sta tutto, al netto delle polemiche sul reddito minimo di cittadinanza piuttosto che su altre forme assistenziali, perché appunto queste sono le macro dinamiche con le quali dobbiamo fare i conti, insomma. Tu fai bene a ricordare, posso chiamarlo effetto trascinamento in qualche modo, cioè allungandosi, per fortuna, adesso con tutto quello che stiamo commentando in questi anni non possiamo nemmeno commentare la sfiga che si allunga l'età di vita, per fortuna si allunga l'età di vita e il trascinamento, come tu spiegavi bene, numeri alla mano, il trascinamento c'è. Grazie anche a Davide Colombo. Focus Economia termina qui, sarà in onda regolarmente sia lunedì che martedì in una versione più festiva, chiamiamola così, di un'ora. E invece vorrei ringraziare come sempre Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione e in regia, Pietro Lacorte per l'assistenza tecnica, augurare a voi un buon fine settimana, soprattutto a partire da chi dovrà passarlo e trascorrerlo lavorando. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.